Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, Luca Tremolà dal microfono, sono le 16.07 e oggi puntatona perché ci occupiamo di scuola, ci occupiamo di didattica e tecnologie, di modernità e insegnamento. Insomma, noi eravamo abituati al cancellino, al gesso, alla lavagna nera e restiamo abituati al cancellino, al gesso, alla lavagna nera. Però con Antonio Dini che è qui davanti a me proviamo a esplorare anche nuovi territori. Sì, Luca, ciao, buongiorno. Secondo me era inevitabile prima o poi che si arrivasse a questo, cioè a chiedersi cosa fare, come usare le tecnologie digitali, anzi, all'interno della scuola, la scuola di tutti gli ordini e tutti i livelli. Perché diciamo il punto di partenza, l'idea di fondo è che il problema vero non sia insegnare ai ragazzini a usare internet, ma usare internet e le tecnologie digitali per insegnare qualche cosa d'altro ai ragazzini, quindi cambiare un po' la didattica. Nel corso della puntata avremo non solo insegnanti ma anche tecnici, tecnologi, esperti, informatici, insomma tutte persone che lavorano nella didattica e cercano di modernizzarla, ma soprattutto chiediamo ai nostri ascoltatori, insomma, e ai genitori, insomma, di segnalarci quelle che sono le esperienze o le scuole da un certo punto di vista più all'avanguardia, che stupiscono di più sia per l'utilizzo dei computer che per l'utilizzo della tecnologia. 824 0024 il numero verde e 349 238 6666 per scrivere un SMS. Assolutamente. E tra l'altro anche i lati negativi, no? Infatti, io volevo richiamare l'attenzione, assolutamente, e anche vediamo di scoprire quali sono invece i posti in cui magari siamo rimasti fermi, ovvero sono anche stati tentati degli investimenti, ma poi non se ne è fatto di nulla o sono stati Computer completamente vuote, computer che non funzionano con i programmi attuali, insomma, di esempi purtroppo in questo caso ci sono molto, ma noi vogliamo raccontare, insomma, tutti i due lati, ecco. E un terreno che, dimmi se ho torto, Antonio, che è estremamente interessante è quello delle tecnologie per le persone con disabilità. È un terreno interessante perché è un terreno, oltre che estremamente utile, anche di scoperta. Le tecnologie digitali, così giornalisticamente a naso, ma tra un attimo lo andremo a scoprire invece con una maggiore precisione, sono state utilizzate in ambito didattico partendo e sperimentando proprio in questo settore, in questo segmento. Noi abbiamo un ospite qui con noi in studio. Che sta prendendo appunti freneticamente. Abbiamo Licia Sbattella, buongiorno, che nasce come ingegnere, però si occupa di un campo che è estremamente di frontiera. Diciamo in particolare dell'uso delle tecnologie e dell'uso di una rete umana combinata a una rete tecnologica per facilitare l'accessibilità dei percorsi accademici, quindi a persone con disabilità, quindi in particolare al Politecnico di Milano con studenti che hanno problemi sul fronte motorio, sensoriale oppure disturbi di apprendimento come per esempio la dislessia. Quindi in particolare la tecnologia ha fatto la differenza in questi ultimi anni proprio per rendere accessibile non solo il materiale che i docenti utilizzano, ma proprio la vita accademica, quindi la frequenza in aula, lo studio in preparazione, ma anche la dotazione personale di un assistente tecnologico personalizzato per in vista dell'attività professionale futura. Quindi ecco, noi abbiamo pubblicato sul Twitter di Novalab24, che è twitter.com/novalab24, un po' dei link per arrivare ad accedere a queste risorse. Ecco, però ci può fare degli esempi anche in modo tale che i genitori sappiano anche dove andare e che cosa fare. In particolare, per esempio, utilizziamo lo studente, per esempio con disabilità visiva, utilizza un portatile, un laptop, come normalmente, che forniamo come università, anche acquistata sui fondi che il Ministero fornisce per ogni studente con disabilità, ma dotiamo questo laptop con il software adeguato per rendere accessibile non solo internet, ma anche il materiale. Per esempio usiamo JAWS per l'accesso vocale ai siti internet. la vocalizzazione del materiale scritto. Tutto gratis? Come funziona? Allora, funziona che ogni ateneo riceve dal Ministero un finanziamento proporzionale al numero di studenti con disabilità riconosciuta e certificata, ma anche riceviamo finanziamenti magari da qualche fondazione bancaria piuttosto che finanziamenti che cerchiamo nello specifico, quindi è completamente gratuito, è l'università che acquista la tecnologia, che dà in uso e personalizza. Particolarmente importante è il ruolo di un team di esperti che aiuta nella personalizzazione della tecnologia, ma anche nel seguire lo studente in maniera personalizzata, è lo studente ad essere protagonista della scelta di ciò che gli serve e della modalità con cui questa deve essere utilizzata. Ecco, è cambiato tanto rispetto a un po' di anni fa? Assolutamente, molto diversa la situazione, sia perché siamo per esempio in un ambiente wireless, l'università, il campus. Beh, è, non ovunque. Noi, diciamo. Ecco. Quindi il Politecnico di Milano, esatto, parliamo. Il Politecnico di Milano ha conquistato questa copertura a livello wireless, e quindi l'accessibilità, entrare in aula col proprio laptop è diventato possibile, e l'accessibilità è molto cresciuta. Ma anche questa, avere a disposizione costantemente lo strumento tecnologico personalizzato a seconda del bisogno, ha creato condizioni di studio e di cooperazione, di lavoro anche in rete con i docenti assolutamente. Che perché tra l'altro, Antonio, cioè noi siamo abituati a ragionare, poi siamo abituati perché viviamo a Milano sul Politecnico, per cui anche su realtà di eccellenza, dove appunto internet è tranquillamente ovunque, puoi accedere ai servizi, ma c'è un tema di digital divide per quanto riguarda l'insegnamento. C'è un tema di digital divide che ha numerose dimensioni, nel senso che sul territorio l'accesso a internet, alla banda larga, come sappiamo, non è perfettamente omogeneo. Se prendiamo come base quella del comune, che è la cellula costitutiva del territorio italiano, la maggior parte dei comuni sono molto piccoli e si trovano in territori dove non è facile portare internet, quindi montagnosi, eccetera. Molti degli atenei che nascono all'interno di piani, perché c'è da dire anche una cosa: le università ne stanno nascendo di nuove, e ne sono nate di nuove negli ultimi anni, non sempre con una pianificazione ottimale, ma comunque con delle infrastrutture, quindi banda larga in qualche modo garantita. Non è la stessa cosa per le scuole. Le scuole, i plessi scolastici, soprattutto quando si parla di scuole situate nei centri storici di città medio-piccole, dove anche i lavori di adeguamento per portare la banda larga, eccetera, non sono sempre così facili, e dove purtroppo anche esperienze come quelle del wireless non sono sempre possibili, perché magari proprio il modo con cui sono fatte le mura del palazzo lo rendono difficile. Poi c'è una seconda dimensione del digital divide, che è quello dei docenti, nel senso che qui si apre un mondo piuttosto ampio, perché il problema, dicevo prima, non è insegnare ai ragazzi a usare internet, il problema è insegnare a usare gli strumenti digitali ai formatori, che poi dovranno andare a fare questo mestiere dell'insegnante 2.0, ecco, se vogliamo chiamarlo così. Ecco, prima di arrivare ai formatori, noi abbiamo in collegamento Pier Cesare Rivoltella. Buongiorno. Buongiorno. È sicuramente un esperto di fama nazionale e internazionale per quanto riguarda la didattica e le tecnologie per la didattica. E proprio a lei volevamo capire due cose. La prima, se fondamentalmente le tecnologie stanno un po' minando la cattedra, ma non nel senso la cattedra come parte di arredamento, ma anche la cattedra come distanza tra gli studenti e l'insegnante, ovvero se un mondo, un ambiente digitale può renderci dotti su un nuovo modo di insegnare, di apprendere. Ma no, io diffido sempre della capacità della tecnologia di promuovere da sola dei cambiamenti, quindi la tendenza è a rispondere di no, anche perché il problema del digital divide, do ragione ad Antonio che saluto cordialmente, è un problema culturale, al di là della disponibilità o non disponibilità delle connessioni della tecnologia. La ricerca dice che pratiche tradizionali si appropriano sempre anche della tecnologia più innovativa. E quindi inserisci tecnologia innovativa in un contesto tradizionalissimo, avrai un uso tradizionalissimo della tecnologia. Professore, buongiorno. Buongiorno Antonio. Lei mi sta dicendo che portiamo le lavagne interattive multimediali in classe e queste lavagne le usano come se fossero quelle fatte di lavagna con il gessetto, solo che è digitale, non c'è niente, non sembrerebbe così proporzionato l'investimento. Senza capacity building credo proprio che la prospettiva sia quella, nel senso che l'insegnante creativo di suo sarà creativissimo con la lavagna interattiva. L'insegnante non creativo di suo continuerà ad utilizzarla come schermo, non come tavolo da lavoro o come finestra per consentire alla classe di aprirsi alla rete. Di qui la necessità che tutto il processo di attrezzaggio sia accompagnato da un processo di costruzione di quadri culturali adeguati, altrimenti il rischio è di non produrre nessun cambiamento. Beh, però al netto dell'utilizzo della, io prima partivo, io sarò anche un po' un sognatore, mi piace l'attimo fuggente così, però insomma la mia chiave era quello, che bello, c'è una lavagna elettronica, dove ci sarà una lavagna elettronica, a quel punto insegnanti e studenti hanno un uguale terreno, hanno un terreno uguale dove possono manipolare, scrivere, aggiungere, creare un'equazione che non è mai esistito, cioè si possono confrontare su un piano digitale simile, e questo sicuramente è interessante, o quantomeno potrebbe, non dico scardinare le gerarchie all'interno della scuola, però magari eliminare quel digital divide che c'è tra la cameretta di una certa generazione di ragazze, parliamo dei cosiddetti nativi digitali, e sicuramente una generazione di insegnanti che non è legata al gessetto solo per amore, ma anche perché magari ha una certa distanza rispetto a internet e a determinate tecnologie. Sì, guardi, di fatto il dato è un po' da rileggere, perché noi negli ultimi 4 anni almeno, per conto dell'ex Indire, ora agenzia scuola, stiamo monitorando i piani di formazione annuali dei neoassunti. E di fatto negli ultimi 4 anni almeno c'è un incremento nettissimo delle competenze informatiche di base, cioè il 70% del neo immesso nella scuola oggi naviga normalmente in internet, ha un uso evoluto della posta elettronica e, come dire, normalmente adopera il computer nella sua prassi quotidiana. Il problema qual è? Il problema è che c'è ancora una diffusissima rappresentazione di tutto questo come qualche cosa che riguarda l'attività individuale del docente e non la sua pratica didattica. Quindi, come dire, le competenze alfabetiche di base in materia di tecnologia sono cresciute, ma continuano ad essere rappresentate come qualcosa che pertiene agli usi individuali e alla sfera privata. Il guado da far passare è quello verso un uso nella classe di queste tecnologie. Il difficile è far capire che quelle stesse tecnologie che usiamo nel nostro privato sono esattamente le stesse tecnologie che possono veicolare gli apprendimenti nel contesto scuola. Questo passaggio non è così immediato e credo che sia lo snodo su cui lavorare. Ecco, ma questo è un passaggio, cioè mi faccia capire, cioè il passaggio è legato al fatto che l'insegnante arriva a scuola e si trova a utilizzare degli strumenti informatici che non sono quelli che utilizzano poi i ragazzi nella loro cameretta, o sono sue iniziative personali, per cui ci può essere l'insegnante che dico una parolaccia, insomma, si iscrive su Facebook e prova a comunicare con gli studenti attraverso Facebook, però ha una sua personalissima iniziativa e muore lì. Questo sicuramente, poi la messa a sistema degli interventi è tutt'altro discorso. Ecco, però è proprio la rappresentazione della tecnologia che ha l'insegnante, che non è la rappresentazione di una tecnologia per la didattica. Quindi ci sono anche insegnanti tecnologici e fortemente tecnologici. Fanno fatica però a pensare che queste competenze possono essere spese nella loro didattica. E lì c'entra il fatto che la scuola spesso non ha a disposizione le infrastrutture e le tecnologie, ma c'entra proprio un problema di cambio culturale da promuovere. Professore, infatti proprio questa idea del cambio culturale che è interessante, nel senso, questa è una barriera che in qualche modo si può rompere. Io chiedo una cosa a lei e contemporaneamente la chiedo anche alla professoressa Sbatella, che ho visto che ha passato un sacco di tempo a prendere appunti qui in studio insieme a noi, che mi fa pensare che stia riflettendo su questi temi. Noi stiamo veramente assistendo all'inizio di un cambiamento radicale nella didattica, cioè la scuola italiana fin dai tempi dell'unità, 150 anni fra un anno e qualche mese, è stata costruita in un determinato modo, le lezioni frontali, il professore in cattedra, i compiti a casa, tutto questo stiamo lavorando per fare in modo che evolva fortemente, che cambi quindi. Sì, in questo momento il centro dell'attenzione è sull'ambiente. Noi veniamo dall'85 in qua, cioè dal primo piano di sviluppo delle tecnologie didattiche a livello nazionale, da una centratura sull'insegnante. Dall'85 fino a presso poco alla metà degli anni 90 la centratura era sull'insegnante, quindi la multimedialità in scuola era uno strumento a disposizione dell'insegnante per innovare le sue pratiche. Da lì, con l'avvento di internet, dopo il turning point del 98 che ha cominciato a spingere la diffusione sociale di internet anche nel nostro paese, la centratura è passata sul soggetto in apprendimento e quindi sembrava che l'innovazione dovesse passare dal fatto che il ragazzo era reso lui responsabile e protagonista degli apprendimenti. Con la stagione della LIM e con il programma Scuola Digitale del Ministero siamo ad una terza fase, dove la centratura è sull'ambiente di apprendimento, e che voglio dire probabilmente è vincente come soluzione, se è vero come è vero che Freinet già nel 64 diceva: vuoi cambiare la didattica, mettiti a modificare l'arredo della tua aula. Ecco, credo che la partita si decida oggi proprio sugli ambienti, non solo gli ambienti fisici ma anche proprio gli ambienti cognitivi. Quindi no, certo, gli ambienti mentale, di apprendimento. Assolutamente. Sbatella. Sì, nella mia esperienza direi che la modalità, un punto chiave per la modifica o la trasformazione o l'arricchimento è avere a disposizione un ambiente multimodale, multimediale, quindi dove vengono valorizzate sia da parte del docente la possibilità oggi di integrare la forma testuale con la forma grafica, con la forma dell'animazione, con la forma del vocale, per esempio, quindi la voce, il suono, quindi un insegnamento che faccia perno su tutti questi aspetti. E in secondo luogo l'ambiente è diverso perché nel giro di qualche anno, forse, insomma, adesso forse è più una proiezione sul futuro, però dove l'insegnante ha a disposizione un ambiente di questo genere e gli studenti hanno a disposizione il loro assistente personale, il loro piccolo strumentino col quale interagire in maniera multimodale. Tutto questo sta perfettamente anche con un'ottica tradizionale a livello di contenuti, di ricchezza, di strategie, di modalità, ma anche di contenuti, quindi reinventarsi dal punto di vista della modalità più che della... Cambiamo Luca un attimo piano concettuale, se me lo permetti, perché stiamo parlando di una cosa fondamentale per la scuola e l'università e sottovalutando che in un momento di crisi la scuola in generale, l'università in particolare, si deve dotare di strumenti, fare investimenti che forse... Come fa a farli? Dove li come trova decide, i soldi? Come può decidere per il computer? Noi abbiamo in collegamento Andrea Trentini, che è un docente di informatica. Buongiorno. Buongiorno, salve. Ecco, Trentini, resti con noi perché abbiamo una telefonata di Pierangelo dalla provincia di Vicenza. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi dica. Sì, niente, io chiamavo per portare l'esperienza che ha fatto mio fratello, che è maestro elementare in una piccolissima scuola, in un piccolo comune qui del Vicentino, altissimo, è un comune di un migliaio di abitanti. E lui è un appassionato di musica e di informatica e praticamente nella sua scuola elementare ha installato una rete di computer utilizzando materiale molto grossolano, molto alla buona, e questa rete l'ha installata con Linux, quindi un programma libero e gratuito, e praticamente lui riesce a fare lezioni di musica utilizzando appunto questa rete di computer. Questo qua è stato anche l'argomento della sua tesi, si è laureato il mese scorso in qualche tipo di scienza dell'educazione, adesso non ricordo esattamente l'indirizzo di laurea. Però insomma ha messo in piedi un ambaradam tecnologico da solo, utilizzando tecnologie libere, tanto di cappello. Tecnologie libere, ma appunto utilizzandole proprio in pratica, facendo lezioni di musica, quindi con un piccolo ingresso MIDI lui riesce a suonare vari strumenti, far cantare i ragazzi e comporre della musica. Infatti queste sono le storie che poi piacciono molto a noi. Grazie Pierangelo. Vorrei capire con Trentini, abbiamo un minuto, poi resti con noi, adesso mi dia una risposta molto veloce, ma abbiamo bisogno di eroi, cioè abbiamo bisogno di persone che dal basso attaccano cavi, scaricano programmi open source per connettere computer? Sì, secondo me sì, poi se volete una risposta più articolata ve la posso dare. Comunque sì, ci mancherebbe. Ma non è un po' lasciare all'iniziativa di singoli? Cioè, prima eravamo tutti d'accordo sull'ambiente modale, sull'ambiente di tecnologie e tutto quanto, poi però c'è la persona che si tira sulle maniche e comincia a connettere i computer. Siamo salomonici, diciamo che ci vogliono entrambi gli approcci, il top down e il bottom up, poi discutiamone, voglio dire, però ci vogliono entrambe. Sono qui con Antonio Dini e siamo in collegamento con Pier Cesare Rivoltella, che insegna tecnologia per l'insegnamento alla Cattolica, con Andrea Trentini, che è ricercatore, docente di informatica, e abbiamo in studio Licia Sbattella, che si occupa di disabilità al Politecnico di Milano e insegna anche accessibilità della tecnologia. Accessibilità della tecnologia. Insomma, ci siamo tutti, siamo in tantissimi. Io vorrei tornare da Andrea Trentini perché abbiamo appena sfiorato il tema di come sceglie la scuola le tecnologie, e uno dei temi centrali per scegliere le tecnologie è avere qualcuno che ne capisca all'interno delle scuole. Sì, al momento della partenza, che poi è il momento anche dell'uso. Luca, prima ragionavamo su un bidello super specializzato, super nerd da un certo punto di vista, anche perché le esperienze che ci stanno raccontando i nostri ascoltatori sono di personaggi che insomma che si tirano sulle maniche e cominciano a connettere computer. Trentini, ma allora il tema qual è? Quello di affidarsi a un fornitore di tecnologia classico da vari Microsoft, oppure quello di andare a cercare in rete, andare al risparmio? Ma poi c'è veramente risparmio? Allora, dunque, se lo chiedete a me, io non sono sicuramente non ho un'opinione neutrale, perché il mio laboratorio tratta il software libero, per cui okay, non posso darvi una risposta totalmente neutrale. Quindi io direi assolutamente software libero, open source, eccetera. Quello che mi permetterei di dire, per quanto riguarda, cioè, per tornare un po' al discorso del diciamo così, del circolo virtuoso versus vizioso di cui si diceva prima, cioè gli eroi dal basso piuttosto che qualcosa dall'alto di sistemico, no? Che arriva formalizzato nel corso dei piani quinquennali, queste cose un po' folli. In realtà io ho detto, la mia risposta è: ci vogliono entrambe le cose. Ci vuole sia qualcuno che dal basso, tipicamente i giovani, sto parlando di me come di tanti miei colleghi, che bene o male conoscono le nuove tecnologie anche se non siamo nativi digitali, che magari le suggeriscono, magari in qualche modo fanno da testa di ponte per utilizzarle, dopodiché vengono in qualche modo fatte proprie dalle amministrazioni. Nel nostro caso, tra l'altro, noi siamo un dipartimento di informatica, per cui abbiamo una situazione privilegiata. Un po' privilegiata. Noi non abbiamo il nerd che ci sistema le cose, noi abbiamo un servizio tecnico dipartimentale con gente molto preparata. Beh, certo. Insomma, è poi il problema della mensa alla scuola dei cuochi, sapete come si fa. Sì, non è un posto dove andare a cercare informazioni di questo genere. Anche se anche noi abbiamo i nostri problemi di fondi essenzialmente, ma questo lo sappiamo bene. Però Trentini, il software open source è gratuito, si può scaricare e installare in alternativa a quello a pagamento venduto dai soliti noti, che poi sono le solite aziende, Microsoft e poche altre. Certo. Il problema è che bisogna anche saperlo fare, cioè si rischia di scaricare qualche cosa che poi ti costa ancora di più gestirlo, o no? Chiaramente. Allora, il discorso del total cost of ownership fra software proprietario e software libero è un discorso che potrà andare avanti per anni e non credo che otterrà mai una vera risposta definitiva. perché dipende da chi lo utilizza. Se chi lo utilizza bene o male, ci sa mettere le mani, lo sa, dove ci sa, per saperci mettere le mani non vuol dire necessariamente una cosa molto tecnica, per utilizzare semplicemente del software libero non ci vuole tanta più conoscenza di quella che serve per usare un prodotto proprietario. Però no, semplicemente se per caso uno deve fare delle sperimentazioni particolari, che ne so, noi facciamo video lezioni piuttosto che utilizziamo una roba che si chiama VNC per condividere il desktop fra vari classi, eccetera, allora in quel caso lì magari ci vuole un'abilità maggiore, un'abilità maggiore che un docente di informatica sicuramente ha. Ecco, invece al Politecnico, Sbattella? Ecco, anche noi abbiamo comunque, nonostante si sia una università che ha appunto dipartimenti di elettronica, informazione, eccetera, abbiamo comunque, per quanto riguarda per esempio l'ufficio che si occupa dei servizi per la disabilità, un esperto che è sempre un ingegnere informatico, però che si è specializzato nell'uso, nella ricerca delle soluzioni più avanzate, più innovative, più da personalizzare, e questo facilita molto la vita, anche in generale per software di condivisione, di accessibilità in aula e così. Incoraggia anche i docenti ad adottare forme più innovative di didattica, perché sanno a chi rivolgersi, quindi per avere un supporto, una sorta di secondo pivot me è all'interno. Fondamentale, questo è fondamentale. Sì, è come se nel condominio ci fosse il sarto del condominio, esatto. Poi tutti hanno il vestito che casca bene, bello, su misura, perché viene fuori, che bella immagine. Infatti ne stai tirando fuori una dopo l'altra. Però una volta che arriva il software, sia esso open source sia esso proprietario, cosa succede? Che poi bisogna insegnare agli insegnanti a utilizzarlo, no? Assolutamente sì. Noi abbiamo in collegamento Gianni Marconado, che si è occupato e si occupa di consulenza alla scuola. Buongiorno. Buongiorno, buonasera. Ecco, voi come vi muovete? Cioè, nel senso, com'è che funziona? Una volta che arrivano anche delle tecnologie super innovative, poi però c'è il primo step, il primo nodo da sciogliere, quello di aiutare gli insegnanti che poi devono utilizzarle. Certamente questo è il primo problema che si incontra, però rispetto di quanto si potrebbe credere non è tanto la competenza tecnologica nell'uso, diciamo, tecnico dello strumento che crea i maggiori problemi, perché quello si impara molto, molto velocemente. La questione diventa come usare le tecnologie, che senso ha usare le tecnologie, perché l'uso della tecnologia comporta comunque un costo aggiuntivo, sia in termini proprio di costi materiali, di tempo necessario per preparare le lezioni, per farlo. Se questo maggiore costo anche sociale non viene compensato da un miglioramento, diciamo, dell'insegnamento, dell'esperienza, dell'apprendimento, no, questo è un costo ma ci stiamo ancora domandando, cioè nel senso che il tema è ancora quello di capire se inserire le tecnologie a scuola? Ma no, il tema dal mio punto di vista ritengo che le tecnologie possano sicuramente aiutare gli insegnanti e soprattutto gli studenti ad imparare meglio, però come diceva prima anche Rivoltella, non è che la semplice disponibilità della tecnologia crea il miglioramento. È necessario poi adottare anche delle metodologie adeguate, e qui allora ci scontriamo con quelle che sono anche le teorie implicite sull'apprendimento che hanno gli insegnanti, e corrono il rischio di ripetere, pur avendo a disposizione delle tecnologie che consentirebbero un'innovazione proprio nei metodi didattici, corrono il rischio di usare, proprio in virtù anche di queste teorie che hanno improiettato di modelli di didattica. Cioè, mi fa già capire, perché è molto complicato per me, cioè che il ragionamento è sì, no, va bene, le tecnologie ci sono, fanno sicuramente bene, però poi c'è una metodologia cioè bisogna poi spiegare agli insegnanti, c'è un metodo per spiegare agli insegnanti che non è condiviso? Cioè, no, non si è d'accordo su cosa poi far fare a un insegnante una volta che è davanti a un computer? Ma no, io credo che il valore aggiunto che possono dare le tecnologie sta nel fatto di poter fare una didattica, un insegnamento, creare degli ambienti di apprendimento dove gli studenti partecipano, hanno un ruolo attivo e collaborano tra di loro. Io credo che solo in questa prospettiva le tecnologie danno veramente quel valore aggiunto di cui parlavo prima, come valore necessario per superare i costi. Questo approccio è un approccio che si scontra contro le abitudini didattiche. La nostra scuola è sostanzialmente una scuola fatta di trasmissione di informazioni con gli insegnanti detentori dell'informazione, con gli studenti che devono leggere, capire tra virgolette i contenuti e ripeterli. Ecco. Io la blocco un attimo, perché a questo punto vorrei chiedere al professor Rivoltella, che tramite l'Università Cattolica lavora anche per capire che cosa sta succedendo nelle scuole in Italia, professore mi corregga se sbaglio, se quello che stiamo vedendo poi in questo momento con le varie sperimentazioni in realtà è la nascita di un modello a macchia di leopardo, non saprei come chiamarlo, professore, cioè in cui ci sono alcune eccellenze che riescono a far andare insieme una serie di cose, di fattori diversi, quindi tecnologie, cultura, eccetera, ed altri plessi scolastici in cui invece nulla di tutto questo accade, nonostante circolari e desideri da parte del Ministero. Ma la logica è inevitabilmente quella, cioè pensare di mettere a sistema un'azienda da 900.000 dipendenti in modo tale che tutto diventi tecnologico e persegua l'innovazione è pura utopia. Allora la logica della disseminazione delle buone pratiche e della sollecitazione delle eccellenze a macchia di leopardo è un po' l'unica praticabile. La cosa importante è trovare dispositivi efficaci per il trasferimento delle esperienze, perché se no le macchie di leopardo rimangono tali, non sporcano di nero esattamente gli interstizi, mentre invece è esattamente quello che si tratterebbe di conseguire. Va bene. Marco Guastavigna, io alle volte resto un po' impressionato, insomma, quando si ragiona molto sul merito, perché forse sarà anche un istintivo, però sono uno per dare, per quanto sia possibile, anche computer vecchi, anche computer riciclati in mano agli studenti, e cercare poi di fare comunicare l'insegnante con lo studente su una piattaforma digitale nuova, tutta sommato. È troppo, sono troppo avanti, no? No, non credo che sia troppo avanti, però credo che sia necessario precisare se intendiamo far usare agli studenti le tecnologie perché siano cittadini del terzo millennio, un po' genericamente, o se invece il ragionamento, come io credo, debba essere quali sono gli effettivi vantaggi pedagogici e didattici dal punto di vista dell'insegnante, operativi e cognitivi dal punto di vista dello studente per usare le tecnologie della comunicazione nelle attività di conoscenza in senso generale. Le faccio un esempio: un conto è imparare a usare un word processor per imparare a usare un word processor in modo quasi autoreferenziale, un conto è capire quali sono i vantaggi della flessibilità del supporto digitale nel processo di scrittura, e io credo francamente che il compito della scuola sia e resti questo. Quindi vanno benissimo anche i computer vecchi da questo punto di vista, a patto che siano però chiari i modelli didattici e i valori aggiunti di carattere cognitivo. Questo credo che sia una discriminante fondamentale, perché se no i discorsi mi sembrano restare un po' troppo generici. Per esempio la parola nuovo è una parola che troppo ha assunto il significato di rottura con il vecchio, senza mai precisare però bene che cosa significhi. No, certo, poi il partito dei nuovisti è forse uno dei partiti più stupidi della storia. Anche perché poi, Luca, le nuove tecnologie non ci dimentichiamo che ce le abbiamo da più di 20 anni, quindi tra a questo l'altro, punto tanto nuove non sono l'altro. Più, come citava prima il professor Rivoltella. Sbattella. Chiedo scusa se riprendo il punto della multimodalità, perché secondo me è un punto chiave. Il radioascoltatore che prima citava il laboratorio musicale realizzato è irrealizzabile con altre modalità. Lo stesso avviene per esempio nell'esperienza di Esagramma, di apprendimento, di insegnamento con bambini con problemi di autismo e di ritardo mentale. Avere a disposizione uno strumento, un software che consente l'integrazione della voce, il gesto, l'animazione, lo scritto, consente di studiare gli egizi, certo, con un bambino con grave ritardo e non di accontentarsi di descrivere cosa si mangia tutti i giorni. Questa è una differenza cognitiva e di apprendimento radicale, secondo me. Allora, io vi ringrazio, tra l'altro ricordo novalab24@radio24.it, continuate a segnalarci dei casi di scuola o particolarmente avanti o particolarmente indietro, poi non ci troviamo sulla giusta via, perché con Antonio Lini torneremo ancora a ragionare di tecnologie e insegnamento, per cui magari partendo anche dalle vostre esperienze. Avete un po' scritto con gli SMS, scriveteci anche nella posta elettronica, noi torneremo a riflettere su questo tema. Intanto ringrazio Gianni Marconato e Marco Guastavigna, buongiorno, grazie. Grazie. E grazie anche alla professoressa Sbattella. Noi ci sentiamo domani alle 4. Grazie. Clicca linear.it ed entra nella tribù. Linear, assicurazioni in linea con te. Vi ha presentato Nova Lab 24.